La storia e la memoria di Dino Pesole. L'esortazione di Thomas Mann agli studenti di Amburgo del 1953 a volere non un'Europa tedesca ma una Germania europea torna in questi giorni di strettissima attualità. L'Europa, come sappiamo, è a un bivio, spinta dalla necessità di superare la stagione del rigore imposta proprio dalla Germania negli anni della grande crisi e imboccare la strada della flessibilità di bilancio, della crescita e del sostegno all'occupazione e agli investimenti produttivi. E la Germania, la più potente economia europea, è chiamata a giocare un ruolo fondamentale, come è avvenuto del resto nel bene e nel male per l'intero Novecento. Cominciava l'anno terribile, il 1914, l'anno che cambiò la storia del mondo. L'Europa e il mondo sono costretti a confrontarsi con la Germania, prima per combatterla con le armi e salvare il mondo dal nazismo, poi, nel secondo dopoguerra, per favorirne la piena integrazione nel mondo occidentale, argine indispensabile della superpotenza sovietica negli anni della Guerra Fredda. E ancora una volta è la Germania, con il muro eretto nel 1961, a rappresentare la chiave di volta dei destini d'Europa. Ed è ancora la Germania, nel 1989, a cambiare la storia europea e mondiale, con la caduta del muro, prologo del dissolvimento dell'Unione Sovietica. E infine, per arrivare ai giorni nostri, è la Germania, con il suo ruolo centrale nell'Unione Europea, a determinare e condizionare i destini europei. Mai come nel Novecento, i destini della Germania si sono intrecciati a quelli dell'Europa e del mondo intero. Del ruolo della Germania e non solo, nel corso degli ultimi decenni e in particolare nella fase che si è aperta dal 2008 a oggi con la crisi dell'euro, crisi dalla quale solo ora a fatica l'intero continente sta provando a uscire, parliamo questa sera con Marcello Degni, coautore insieme a Paolo De Ioanna del libro Il vincolo stupido Europa-Italia nella crisi dell'euro, appena pubblicato da Castelvecchi. Marcello Degni è docente di contabilità pubblica all'Università di Pisa e alla Sapienza, nonché docente stabile alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Fin dalla prima formazione della CECA, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, nel 1951, si tracciano due visioni dell'Europa, quella federalista e quella confederale. La distinzione ha un fondamento profondo, perché la federazione confligge con il nesso tra sovranità e democrazia, che implica per l'esercizio dell'autorità del popolo sovrano la coscienza della propria identità. Il modello con cui si è cercato di ovviare a questa potenziale antinomia è quello funzionale, basato su integrazioni successive e sempre più ampie delle azioni comuni. Ma il crescendo è fallito sempre nei passaggi cruciali, con la comunità di difesa nel 1954 e più tardi con la separazione tra unione politica ed economica a seguito dei referendum negativi in Francia e Olanda. Dopo la grande crisi finanziaria, prendere la rincorsa diventa più difficile. Il fattore di criticità più rilevante sta nelle ragioni dell'anti-keynesismo tedesco. Allora, Marcello Degni, Germania, Europa, i destini si incrociano, la Germania ancora una volta è chiamata un ruolo decisivo, e siamo a un'Europa tedesca oppure a una Germania europea? Ma come noi sosteniamo nel libro, siamo verso forse una Germania europea, nel senso che manteniamo, diciamo, questa linea di ottimismo della volontà nell'analisi, nel senso che non può esistere un'Europa tedesca, la Germania europea, come l'esortazione di Thomas Mann, è l'unica via che può essere intrapresa. In questo senso è molto importante, e noi questo facciamo nel libro, focalizzare l'attenzione sulla Germania, perché la Germania è il paese più importante dell'Europa, è il paese in cui tra l'altro c'è il dibattito più interessante su queste questioni. Infatti il filosofo tedesco più importante, Jürgen Habermas, che noi abbiamo, diciamo, citato ripetutamente nel libro, esprime a nostro avviso, diciamo, la via d'uscita più coerente con questa rispetto alla situazione attuale, cioè quella di una maggiore integrazione europea, mantenendo l'identità degli stati nazionali, che non deve essere persa, ma deve essere praticamente, bisogna fare questo passo in avanti verso una, attraverso una cessione di sovranità. Questa è l'unica strada, perché altrimenti, come viene rilevato nel libro, i dati parlano chiaro, insomma, nel 2050 l'Europa rappresenterà solo il 7% della popolazione mondiale e quindi può contare se sarà un'entità autonoma, un'entità unica. I singoli paesi, Germania compresa, da soli non potrebbero competere con stati, potenze indiscutibilmente mondiali come gli USA, la Cina, la Russia, il Brasile e l'India. Per questo riteniamo che, poiché c'è un dato strutturale che spinge verso questa direzione, riteniamo che si debba procedere verso l'integrazione, insomma, ineluttabile, ecco. Anche se ovviamente molto difficile. A proposito di questo, così veniamo proprio all'argomento del libro, la stupidità delle regole, il vincolo stupido, si riferisce, ricordiamo ai nostri ascoltatori, sostanzialmente alla rigidità del patto di stabilità che è stato istituito nel 1992 e poi ha avuto varie declinazioni, come dire, e però alla fine si è tradotto sostanzialmente in un esercizio piuttosto severo del rigore finanziario. Allora, un vincolo stupido che quindi va rimosso, secondo voi? Un vincolo stupido che va interpretato. La frase non è nostra, ma la disse Prodi in un'intervista a Le Monde nel 2002, quando era presidente della Commissione europea. Proprio a questa domanda rispose: tutti i vincoli, diciamo, rigidi sono di per sé stupidi, nel senso che vanno interpretati con elasticità, e questo deve essere fatto nell'Europa, cioè, e mi sembra che la tendenza di questi ultimi mesi sia proprio questa. Quando abbiamo iniziato a scrivere questo libro avevamo un approccio, ci sentivamo molto eretici, cioè adesso praticamente tra l'inizio e la pubblicazione siamo entrati nel mainstream generale. Questo è un fatto positivo, perché vuol dire che oggi, diciamo, di flessibilità, di interpretazione delle regole parlano un po' tutti, e del resto gli Stati Uniti hanno dimostrato che con una gestione flessibile della politica economica, sia di bilancio che monetaria, è stato possibile praticamente rilanciare la crescita. Il punto fondamentale che il vostro libro sollecita, oltre ad altri, molti altri, è anche quello relativo al percorso di integrazione politica, perché noi lo ricordiamo, l'Europa è costruita e integrata sotto la forma dell'euro. È un'anatra zoppa, perché le manca tutto il resto, l'unione politica, l'unione fiscale. Ecco, in che direzione stiamo andando, se si potesse fare una previsione il più possibile attendibile? Beh, la moneta senza Stato sicuramente non può reggere all'infinito. È stata una grande costruzione, una grande intuizione politica, che preludeva però una successiva integrazione delle istituzioni europee, cosa che si è scontrata con l'egoismo degli stati, le resistenze degli stati e poi con la grande crisi finanziaria. È ovvio che alcuni passi sono in questa direzione, ci sono stati indubbiamente. L'elezione ultima della Commissione europea, con diretta espressione del candidato alla presidenza, e il fatto che poi gli stati hanno dovuto rispettare questo verdetto degli elettori, un maggiore peso della Commissione nel nuovo processo di decisione finanziaria, che è presidiato dal patto di stabilità e crescita riformato nel 2011, sono tutti piccoli segni che muovono in questa direzione. Certo, è necessario fare dei passi ulteriori. La direzione mi sembra abbastanza tracciata. Un'ultima questione vorrei trattare. Nel vostro libro, appunto, si parla del modello delle integrazioni successive, che poi è quello che sostanzialmente l'Europa ha percorso dal secondo dopoguerra in poi, fin dall'istituzione della CECA. Però forse è un processo un po' lento, forse troppo lento rispetto ai cambiamenti dell'economia e della società. Assolutamente troppo lento. È un processo che è necessaria una integrazione delle politiche fiscali, che nel giro di breve tempo deve dare dei risultati tangibili. Bisogna rendere il bilancio dell'Unione Europea più adeguato a quello che a quella che è l'importanza, l'imponenza di una struttura come l'Unione Europea. Oggi attualmente è assolutamente insufficiente, non arriva all'1% del PIL. È necessario che alle azioni di politica monetaria che la Banca Centrale ha intrapreso, e anche questi sono dei segnali ovviamente che vanno in questa direzione di cui parlavamo, perché soltanto l'anno scorso sarebbe stato impensabile un'operazione, pensare che la Banca Centrale Europea potesse fare un'operazione tipo quella analoga a quella della Federal Reserve, no? Quella che si appresta a fare la Banca Centrale. Evidentemente la crisi ha anche dato una spinta in questo senso, no? Come sempre le crisi sono anche fonte di difficoltà, ma anche stimolano anche le risposte, a cambiare, come certo, deve reagire. A cambiare. Grazie, grazie molto a Marcello Degni e buona serata. Grazie a voi. Buonasera.